niente. Genio. Sono tutte le nuove pomiglie, le nuove storie, c'è un po'. Ah, ma c'è Tumelli, non lo mette davvero? No, non ho messo nulla, lo sto controllando, siamo in tramite di vista, perché erano spostati, stavo controllando su questa, che non la stavo operando e ho detto che cosa, ora mi toccano i bambini, si girano e si girano. Ho capito, vabbè, avanti già. Sì, bravo. Che dire, ci sono combinato, se lo sei aggiustato, non sta parlando. No, ti ho parlato abbastanza, sì, perché c'era il signor che era adesso vicino, alla chiama, e dentro le robotio la il fuso del buono, e se lo taglia dentro, l'ho aperto, ci ho messo dentro di risaltura, e l'ho messo dentro a poco, ma bisogna spiegare, ma già si è proprio alle 7, e se ero tutto il tempo, è fatto. Una femmina che praticamente sono la manta di maiale, deve essere che si è resa conto di cosa stava succedendo, probabilmente perché era davanti a lì, è riuscita a scappare, i bicicletti, ragazzi, se la tirati ai vicini urbani, c'erano due vicini urbani, stava per tirare addosso a loro, cazzo, alla fine l'hanno sparato. Stava scappando dalla strada. Però fare che ti... Però che se si scioglie quando torni fuori non fai più. Non c'è niente a spararlo. Bisogna raffello legale. Per esempio raffello fare delle lancio quando glielo brucio. O chiedere come chiuso. Io non voglio stare lì, non mi fumo. E basta tutto la prova. Non c'è niente a bocca. E con un mio pubblico raffello legale. Anche a bocca lì. Non c'è niente a bocca. E lì trovo la gruppa. E tanto. E lui non è fermo. Un fungo è perso. E beh, se lo fermi non può scappare nessuna parte, normale. No, io l'ho visto proprio, l'hanno preso questo fianco dalla roba, ciò, ho uscito dal cucino e pum, l'ha preso una pistolettata in terra. È pulito, no, già, ecco, più bello è poi dopo bisogna farlo lavorare, se no bisogna farlo lavorare, bisogna tradizionale, hanno scarpetti, hanno tutto che si è, un po', se già c'è tutta la verdura, tutto per tagliaggio, siamo attestati lì, detto, quello è, faceva tutto, tanto sotto, quindi qualche sto a mano per lei, tagliamo, ma è una cosa, non c'è da fare molto noi. Quando c'è la tentativa, non è, io l'ho visto fare continentalmente, così dopo che l'hanno sparato, l'hanno toccato, hanno fatto uscire il sangue, l'hanno raccolto, poi gli hanno messo delle frasche sopra, l'hanno bruciato, l'hai usciato, e una volta che era usciato, dopo l'hanno preso, il figlio era macellaio, quindi figurati se non lo sapeva fare, ha fatto anche il sanguinaccio. Macellaio già, sono quello però più se c'era molto vero. No, io il sangue non è, no, è quello piccolo, è quello molto quello lascia stare per te via, no? Così lo posso raccogliere, per diventare se vuole per uno di noi girato, fa pistola usata, e deve girarlo, per come fa gente, no? Se lo cago e se lo fa, bisogna girarlo, per come sì, lo so, poi un'altra volta lo stesso l'hanno ammazzato, cazzo, quando stavano raccogliendo il sangue, ha dato un calcio, come si stava dimenando, pure non l'ha fatto più da terra. Non è che rimane tanto fermo non sbaglio, tu sai che loro allora faceva male, facevano un terzo, lei che fanno anche quando stai fanno 5 lupi e non è più tanto il bello era quando per stare quel vero e quello grande quello e tu hai detto no, lui c'è te hanno devi cacciarlo, si chiama di cacciare lo so, non è una cosa bella di solito lo fa il veterinario, no? Di solito lo fa il veterinario, mi fa un sacco, così toglie il cavallo tutt'ore. Sì, la domenica qua, sì, ma io non so come mantenerlo, è duro, mi so, non lo vuole tanto mantenerlo. Quando sono tutti grossi, mamma mi diceva che quando c'era tutto il padre, gli facevano un grasso che toccavano la faccia a terra, che erano i grossi. Va bene, anche oggi mi ha chiamato Palmeria, vieni che facciamo un po' di siamo in compagnia, dice, siamo tre, mi dice, scegli anche tu, dice, stiamo facendo un po' di stessi di quel maiale, tutti voi abbiamo, se mi hai ammazzato già loro, se ci sono, non ci sono. Sì, vabbè, poi ti stufa, quando ne muovo ti stufa la roba, no? Non è come quando ci dai di questa data, quando ne è in abbondanza, poi la fine. Poi mi ha detto che la settimana che mangiava il maiale non toccava nulla perché metteva il largo di minestrone e questo e quella tutta roba grassa. Dice non mangia nulla quando c'era il maiale, quando mangiava il maiale. Tu hai un mese ne abbiamo mangiato uno ogni settimana, uno ogni venerdì, ogni venerdì sera ne c'è buco. Ma tutte le salsicce le fa? No, se ne ha venduto, carne, si ho fatto la salsiccia, se ne ha comprato mai il terremoto passato e ci aveva sempre il fegato scorso che c'è il macello e malfo. Eravamo arrosti, era messo in chiesa a tenne, erano quelli lì che non erano mai niente, per te che non abbiamo mangiato per le pizze, il sogno che stai avanzando era a parlare, stai diventando in taglia corti, ma... non è amaro il fegato del maiale? Cosa è? Amaro. Amaro? Che amaro, è dolcissimo, ma dolce, è si sciuga, ma è dolcissimo proprio quello di maiale. Io una volta ho sbagliato, ma questo era amaro. Allora gli hanno rotto il fiele, non lo so cosa è successo, però... A me il fegato piatto, mi piace grosso, tagliato grosso e scaldato a tarampella, ma quello di pizzetto, se no mi tagliato. Sì, no, vuol dire che è un altro fiero, vuol dire che con la mano, con quello con la mano, è un fuggio, andare a sottovili, se uno non lo sa fare taglia, allora c'è quello che fa questo, hanno difficoltà a me il pulpetro fa veterinario, si vede che hanno veterinario e da Fran la pochetta sta il posto la chiave di sistema. Ah, per analizzarlo? Lo vuole macellaio per lo fare il suo corso da lui, che usa il macchietto, fa la chiama la posta delle stanziale, se hai vedo delle stega, potete vedere fra meglio tutti tra le cose che si mette e niente, è il crisi. Ah, non quello fa, io facevo che la faceva serie per lo campagno, ora che non la faceva più digitale. Vabbè, lui ha tutto in regola, cosa la dicchia, ce l'ha in regola, e ce l'ha, e ci farà quelle dell'auto, della torre, per esempio, dai, e torna il corso, proprio per far sparire un maiale, come se corso, fa via, la cosa deve essere, stato macellato in modo, già, ci sta, e viene al momento, lo stiamo macellando, vedo, fai con il rutello, no, che non lo no, vabbè. Io mi ricordo ammazzato i macchini di Basia che passavano in utilizzare, sta fregando in città di allora, però che se lo tenevano loro sicuramente per analizzarlo, perché quando mi ci vedeva questa figlia. Poi una volta questo macellaio stava, perché io andavo, portavo i bimbi, portavo gli animali bimbi, portavo, poi quando c'era ancora ammazzato gli apportatori, cioè, si fa. E poi andavo col capo figo e col capo macellato. Allora quando andavo le vidi a macellato di io c'era gente a casa che c'avevano quella specie di cose elettrica per farli scendere le bottole che si puntavano, non volevano scendere. C'era questa cosa elettrica, gli dava la scossa e scendeva. Non volevo scendere, ma non so cosa ha fatto. Ha incornato il cacciavo del cane, l'ha fatto in tutti. Fatto in tutti. E questo filo diceva, ma non c'è da prendere il bastone, c'è dato due colpi. Ha visto il veterinario, e se fosse l'ha ammazzato io per due mesi. Questo faccia mettere a Claudio, se no abbiamo... Mamma di Claudio. C'è qualcuno che vuole entrare? Avanti? O vuoi continuare a schiacciare il PTT? Fammi capire. Non stai uscendo. Non stai uscendo di radio. Sto parlando a Gianni, c'era questo tu. Anche sopra di te, qualcuno che non sta uscendo. Sapeteci tutto. È una tappignana. Qualcuno che non stava uscendo. Ciao Marco, buonasera. Metti a posto il microfono prima. No, io non ero io, ho sentito una specie di forse microvocina sotto, è qualcuno che non sta uscendo, il mio funziona bene, non è il mio, Non stai uscendo, no. Gigi, tutto quello che vuoi, però io non partecipo mai quando lo ammazzano, io partecipo dopo, quando è tutto pronto, in vera graviglia attesa, capito? Io l'ho mangiato già nel fegato del maiale, così appena fatto, ed è squisito, evidentemente lì hanno fatto qualche manovra sbagliata. Capito G? Quindi io non partecipo perché è una cosa che non mi piace vedere. Avanti Marco. Ah, di cosa stavate parlando? Della l'uccisione del maiale? Così è. Ehi, è orribile da vedere, non è per me. Non è per me, però quando la carne è già pronta la mangio pure, altro che. Assassino di Cibucca. Infatti io ho detto che non mi piace partecipare, ok, mi hanno sempre invitato, però io vado dopo che è tutto pronto. Capito? Dopo che è tutto pronto vado avanti, Gigi. Natalina l'UBMR. Lo sento da una parte e poi dall'altra, non capisco dove. Eia. Ciao lui, come ti dice già? Ciao Marco, no, benissimo, sto andando bene, sto facendo un bel fegato di maiale e ripeto. Buona, ma perché? Considerata una cura? O l'hai detto scherzando? No, lo devo pensare per quello, c'è appena lo vedevo di rispetto a gocciolare, appena perché a metterlo sopra l'articolo, a guardarlo, ma faccio la presa a pezzo, quello facevo a vedere se con il velo come era pensato un po' il maiale, che non si dice il velo che c'ha, non c'è un velo piccolo, quello si può come si asciuga, gli affai gli accorgi via al fè, alla fè, non mi sopra la gola, se quel grasso, quello mi dà questo spettacolo. Caspita. No, vabbè, io il fegato che mangio è quello preso in macelleria, quel procedimento non l'ho mai provato, assaggiato, dai, diciamo. E maiale come si ammazza? Ma perché si mette a testa in giù e poi si taglia la gola, così è. Mamma mia, io ho il cuore troppo tenero per queste cose, lui. Non si vuole, io vivo come vivo, però sì, per tutto le buonate con la gruppa del sole, che poi appunto nell'entro si può, quello gruppo zero, ma da portiglia dentro dalla gola si può entrare fuori. Ma il sangue deve scolare o deve rimanere nel corpo? No, invece meno di un minuto nel sangue del tetrico, non so quanto neanche quello c'è. Meno di un minuto lui è detto per terra, due, tre mila. Mamma mia, deve essere uno spettacolo per gente che ha lo stomaco forte. Io te l'ho detto, sono troppo tenero, non potrei vederla una cosa del genere. Poi la mangio, vedi, io sono ipocrita, poi la mangio però la carne del maiale. Sì, ho visto una che ancora era mangiare, una stoffa grossa, che era la piedina al papà, prendo gli appassi, le pude letto, quella l'hai vista già, ti ho mandato una foto su un coso. Dimmi, Valè, dimmi. Abbiamo Gigi Vulcano che da quando è in pensione si è dato ad ammazzare i maiali, cosa vuoi ti faccio? No, oh, io e l'altro, vero Gigi Lontano. No, se fosse un caro, io l'ho sempre fatto, da piccolino, c'era il padre, l'ho sempre fatto prima della vita. Questo lavoro l'ho sempre fatto dei maiali, e qualche vita è fusto, c'era una mia cogna, le facevo anche le stelle, le facevo un po' e anche loro, anche le stelle in campagna, le stelle, sopra il carrello, le mangiavo lì dove erano nelle fatto dove stavano pascolando di testa. Ah, Lucia, vabbè, no, ma già lo so che è una cosa che fai da tanto tempo, non è che la fai adesso, però sai, c'è quello che le piace come a me, no? Non partecipare alla cosa, ma una volta è tutto pronto, già è bello. Ti metti e vamos alla playa, Marco, ma come ti mai non ti sei fatto sentire per niente oggi? Cosa stavi facendo? Sei andato a lavarti la macchina? Veramente ero drumito fino alle 6:30, mi è venuto questo bel sonno sotto le coperte, mi sono addormentato dalle 4:30 alle 6:30, forse anche di più. Ma sai quel bel sonno proprio che ti... bello. Cosa volevo dire? Io ho visto quei filmati tremendi dei narcotrafficanti messicani, lì lo fanno con i cristiani, tagliano la gola e si vede un lago di sangue sotto, una cosa terrificante, Antonio me l'aveva fatti vedere, mi grotte. Mi era passato l'appetito, guarda, una cosa atroce. Chi è che vuole entrare? Oggi siamo un po'... Se qualcuno vuole entrare avanti invece di parlare sotto Marco, sotto però non sopra. Gianni, riprendi. Gianni. Un attimo, sono al telefono. Ma tu hai chiesto di al telefono? Sì. Mi Natalino è tornato, mi. E al telefono in PMR, vedi. Vai, mica se ti ascolto. Tutte le volte ti sposti, io mi manco già pisci che sono. Io c'è tutto acceso, quello bene, eh? E va vedendo che un amico tuo e con l'altro. Non c'è problema, fammi schiattare. Non è vergogna di la verità. Io ti ascolto sempre quando sei lì, quindi non c'è problema, io c'è tutto acceso. Avanti Gigi Vulcano. Positivo, no, io a Natalino proprio zero competente, non so se lui mi ascolta a me, ma io a lui proprio zero competente qua da me. Forse non ti ascolta neanche lui, lei c'è un'antenna interna, capito? In attesa che le piattino questa antenna esterna. In attesa, capito? Però qua ci arriva 3-4, dai, anche da Marco arriva anche di più, da Gianni. Però dentro Sassari, dai, più o meno lo sentono un po' tutti quelli che parliamo. Fuori sassere non arriva. Avanti Marco, riprendi tu, cambio. Eia. Vabbè. Sì, sono spettacoli brutti anche nel mattatoio, mamma mia. Che roba che potrei fare io, Valerio? Hai vomitato, sei riuscito a trattenerti? Vabbè, anche a me non mi piace, io sono molto amante degli animali, di qualsiasi animale, anche quegli animali che si mangiano. Con mio figlio ne parliamo. Non ho mai assistito perché non mi piace proprio, mi fa male, capito? Quando la carne è pronta, la macelleria che sia pronta, già selezionata anche in una campagna, vieni a mangiare un vado tranquillamente, ma assistere a queste cose non mi piace andarci. È una cosa che non ho mai fatto perché veramente mi dà un sacco fastidio. Va bene, avanti Natalino. Natalino. Va e viene. Gianni invece dov'era? A telefono? Io devo andare stasera alla festa delle donne a Natalino. E mi metto la femmina. Allora, ci vediamo. La donna e andiamo incogniti. Faccio una parrucca bella bionda. Un rossetto, capito? Vabbè, la barba, c'è la barba lunga e quindi no, vabbè, ma non fa niente. Non fa niente, già passa Roma a Tessi. E allora, dove vai? Io faccio una vaipa, che problema è? Si può fare. No, mia figlia si sta organizzando con le colleghe di lavoro. Infatti oggi ha detto che rientrava verso le 8, poi andava a cena con le amiche alla festa a Roma. Infatti ho detto, poi la distribuiva mamma Duia, invece sempre non cambia la raga, che cazzo, non c'è finito di mandarcela questa, che Gigi Boca. Claudia, non è questa festa della donna, ormai la festa stanno festeggiando questa festa della donna, insomma, ricordo per quelle stelle a Parigi che siamo detto ci stanno meglio, che c'è la branca loro, che c'è la branca loro saranno fatta come se però la festa della donna, sai? Cose brutte sono, troppe ne stanno ammazzando. Troppe. Questi delitti così, queste cose, le donne erano veramente un disastro. C'era una grande manifestazione a Cagliari, un casino, bisogna darsi una calmata perché non va assolutamente bene così. Vediamo se è rientrato Gianni, no, Gianni è ancora al telefono, riprendi il tuo Marco. Eia, la festa della donna, vedi che le donne sono sempre avvantaggiate. Allora perché non ci facciamo la festa dell'uomo? Perché la donna deve avere la festa e l'uomo no? Non è ammissibile. Beh, è una festa nazionale, l'8 marzo è la festa della donna, è così, si festeggia la festa della donna. Tu perché no gli hai detto a Liu? Bastava farti donna, vabbè un po' ti assomigli quindi. Sì, adesso assomiglio. Forse avrei voluto nascere donna io, non lo so perché, forse sei stata la più tro di Sassari, capito? Con le ali che c'hai tu, Gianni, vuoi andare? Beh, avresti fatto i soldi, ciao Fra, buonasera, ben ascoltato, avresti fatto i soldi Marco, è così, vedi, invece sei nato uomo, e orecchione pure, quindi manco quello puoi fare, avanti Fra, Franco, ciao Fra, buonasera, ben ascoltato, Barato Mobile, sempre, va bene, capito, voleva nascere donna, niente, è nato uomo e orecchione pure. Ma orecchione, e perché orecchione? Anzi, gli orecchioni sono sempre a trombare, si trovano altri orecchioni, invece, e qua è diverso. Bene, riprendi lui, oppure Gianni, sei rientrato? No, non è... quando mi chiama Gianni mi tiene roba di un'ora e tre quarti al telefono, mi tiene un bel, infatti certe volte sono sfinito dopo la telefonata di Gianni. Mi ha detto che riprendeva la macchina, se mi pare sono capito male, mi ha detto che riprendeva la macchina. Figurati, vale che ci sta anche a rispondere al telefono, Marco, Bianco, per me che è arrivata gente al secondo, riprendi Valè. Per carità, una cosa contro natura. Una cosa contro natura come quella non l'ho mai vista e non la, come dire, non la, non dico la provo, perché tanto approvazione non lo fanno, ma proprio è un'aberrazione quella della natura, non la condivido, ecco. Eia. Allora, qua è arrivato il pranzo, già lo so che vi scandalizzate, il pranzo alle 7 di sera, però dai, sto pranzando, sentiamo dopo, ciao. Ciao, ma poi col cenino domani mattina, faccio il pranzo, la cena non la fa, fa pranzo, cena tutta assieme, ciao. Oh, ciao, ciao G, dai, un attimino che mangio qualcosa. Natalino, hai parlato assieme a un'altra persona, dimmi cosa hai detto. Grazie, grazie, grazie, a dopo, dai. Ha una pipì che sono uguali per le collette, devo chiudere. Vieni, auguri a tutti bene. Sapete, solo per le donne uccide i maschi, capite? Non credo si è dovuto presentare un attimino, c'è gente, non ricordo, comunque si è presentato un attimino, Claudio. Hai aumentato adesso, cos'è? Eccomi, sono qua. Ciao Eugenio, tutta la Dino, ti intendo, indietro, in coperta. Ma mi sentite? Buonasera a tutti, cambio. Chi è? Ciao, no, Luca, so, mi sente adesso? Sì, tutto a flusci. Adesso, guarda un po', sto provando un moracchino. Ma adesso no, adesso va bene. Va bene il segnale, ciao Luigi, ciao a tutti comunque, va bene il segnale. Il segnale è tuo. Vabbè, questo è un 48, dai. Sono uscito di radio e ho trovato il problema. Va bene, dai, niente, guarda, mi assento un attimo. Faccio un'altra prova. Perfetto, è 5 perfetta la radio. Andava bene, dai, via. No, negativo, microfono normale. Visto che quando la radio funziona, lo microfono giù, io, ci funziona, è oggi uguale. Sai cos'è qua il problema? Che manca la luce dello smith. Mi rapponi, cos'è vuoi pulirla? Lo so, non c'ho la lampadina. Mette le luce, Luca, ciao, mettemi tra le luci. Bisogna, ciao lui, bisogna vedere se ci sta a sto mezzo. Ma ce l'ho uno smitter di 40, di 68. Cioè, ma ragazzi, su cazzo di maracchino, granito, niente birico. Sì, tu buono, sono molto e molto di caricose, ma è tutto pieno di grasso. Infatti, prima di aprirlo ho dovuto, come si dice, ho dovuto pulire. Perché è nuovo il baracchino, messo bene. Ma era tutto pieno di grasso. Ma che buono, non ne ho cose, non lo smetterò qua. È di un ragazzo che se lo mettere fuori strada, dai. È un po' di più che puoi farlo andare in fiume quando ci sono le cose da pure eliminare, da girare. Tanto lui si è per fuori strada, tanto si parla da vicino, capito? Va bene, no, esce benissimo, più che bene. Oggi, se ti chiedo una cortesia a nome di Eugenio, gliela fai? Così, visto che siete anche vicini. Non so che cosa c'è. Deve mettere il connettore a 4 su, cioè a 5 mi sembra, vabbè, ma poi già lo sai tu quali sono, intanto è fisso, sempre 4. Al DM1000 nel Midland. Il DM1000 lo vuole mettere nel Midland a 4, per lui nel Midland è da 5 e passa alla 4 lui. No, praticamente il DM1000 c'ha 4 fili, però l'attacco c'ha lui e quello a 5. Capito, però tu ne devi usare sempre 4, mi sembra, perché o a 6, a 5, a 6, però sai perché 2 vanno eliminati, G? Perché c'è il microfono col down e up, quindi li elimini quelli e usi gli altri 4, è da mettere nel connettore a 5 però. È positivo, sì, quello sì, perché non cambia i canali più dal microfono. No, non gliene frega niente a lui cambiare il canale dal microfono, interessa usare il DM1000 in questo Alan 48 Plus, capito? Che già lo conosci tu, ma glielo fai, G? Io non ci credo. Si può fare un adattatore come gli occhi io, un adattatore prende una filmina e si fa l'adattatore, no? Per il campo, hai capito oggi? Un adattatore si fa, poi passa l'attacco a 5 da parte, a raccare alla parte e l'attacco del microfono, hai capito? sono un assessore, non si può sempre sapere. Non ci riesce a farlo lui, no. Se tu sei presente a te, tu le fai solo il connettore, tu ti porti al connettore a 5 e tu glielo le attacchi fini, boh. Ah, oppure sì, oppure sì. Allora lui ce l'ha 5 nell'apparato, giusto? Nel bracchino ce l'ha 5, giusto? Ah sì, ce l'ha, e ce l'ha già, l'ha già comprato, capito? Lui ti porta il DM1000 che c'ha già il connettore a 4, ne togli quello a 4 e glielo devi mettere a 6, senza attaccarli da ne up, no? Quindi sempre 4 fili so. Capito, lo devo vedere, da ne lo devo vedere, perché no, vabbè, io sicuramente ce l'ho pure già fatto, però se per me, dai, sto per provare, ce l'ho pure, ce l'avrò anche fatto quelli, ce l'avrò anche quelli, questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 6, non ce l'ho già anche fatto, però le trago per me, dai, io le ho proprio per me, però è proprio fatto così con un pezzone, vabbè, mettiti d'accordo con Gigi, perché c'è un bel impianto adesso in macchina, capito? C'è l'antenna nuova, l'ha messa nel fianco, esce un bel bene, io l'altro giorno l'ho sentito da Silico, dalla piana di Silico arrivava a Santiago 7 qua, una cannonata, però lui vuole attaccare il DM1000, ma io non ci credo, a me mi rifà sempre Andrea il microfono, non ci credo Gigi, capito? Se no li avrei fatto io. È positivo, comunque sto facendo le antenne, quel Mario sale qua, amico mio, antenne per il cantiere, senza, non ho bisogno di, capito, di per il cantiere, perché non ho, con le cose in riso, sto facendo le antenne appositamente, non fa bene che addirittura non ho bisogno, guardate, non c'è nazionale, non c'è nulla, siamo a condizione, ho visto le prove, fa Facebook, la pubblica, sto facendo vedere proprio per il cantiere, che sono in riso, sto facendo queste antenne per il cantiere. No, Virginio c'ha un bel impianto nel campo, c'ha una bella antenna, una Midland c'ha Gigi, funziona un bel bene, capito? Funziona bene. Che prendi oggi? No, deve fare il contrario, sì, lo devi portare a qua. Sì, ma lo devi fare, devi fare una opzione, capito? Ma se non lo fai reparto, non puoi stare a attaccare, capito? Lo devi fare reparto, e poi l'altro prove, vedi che non l'altro lo cambi, le fai, no? Lo ficcano. Le cose sono sempre. Non deve caricare sempre con i quattro fissa, come si chiama, dai, alla... E poi puoi sbagliare una cosa, che un filo sotto sbagliare, che devi dire in caso di mamma. Se no, sono è semplice, meno, non è che ci vogliamo anche. Se riprovi un paio di volte ci riesci, troppo provi. No, se vuoi te lo faccio io, lo rifaccio, se vuoi, con il lo faccio, no, sono proprio. Ma quali crofo vuoi, o cosa, puoi adoperare come vuoi, o puoi dare sempre di quello. Ma basta trovare un piccolo pezzone, o quello puoi fare, è un artone, hai capito? Lo fai come l'artone, quel microfono puoi operare come tutto, se no una volta che fai quel lavoro devi operare sempre lì e basta. Sì, ma quello tu lo capisci a me, devi fare uno per 10 cm, un calmetto, uno per 10 cm devi fare, ma poi devi fare una cosa, ma che fai, no? E dalle. Nel macchino nel microfono, non fai solamente lo stone. Ah, dato, lo pezzone al macchino, dato il microfono, cosa quella tanto devi comprare così. Ma tu sai che è quella che entra al macchino, quella del macchino, sì, ce l'hai. Allora non c'era un macchino vicino, c'era la macchino vicino, c'era la 4, che non serve, che lo conoscerai, devi prendere una 4 da mettere, serve una 4 da mettere al macchino. Ma se serve quelli lì, ti serve un altro di quello, se c'è già quella sì, una per 50 cosa, quella è per fare la e tu fai le cose, poi dove mettere al microfono vede quella cosa, mentre al microfono bene lo stesso, non so proprio. Ma intanto lui lo lascia fisso lì, Gigi, capito? Quello lui lo vuole fisso nel camper, perché lui c'ha il baracchino nel camper, fisso il baracchino a casa, qui non ne frega niente, aspetta. Basta mettere lo spinotto, la San Chivi e quello originale se lo tiene di scorta. Hai vinto. Oppure sai che microfono è affidato? Ehi, il microfono amplificato, ma esce bene mi, anche con il microfono normale, io l'ho sentito da Silico, una cannonata, esce molto bene, capito? Però sai, se c'è un pochino di radio in più non è male, dai. Giusto. KK, che ne so, è già le 7:30 si sono fatti, ciu. Ah, oggi, allora sai che ce n'è uno di quel macchino, il microfono Midra. Ah, sì, il microfono completo c'è un nuovo, lo sai, di un macchino che si era bruciato, non lo so. Comunque c'è un microfono nuovo, tutto per cambiare dalle cose. Questo è di quel macchino lì. Ma il microfono cos'è? Un Midra, e sopra c'è di DNUP. E con quel microfono sentiate così. Ah, ho fatto. Ho fatto. Pensavo io. Pensavo se senti. Io ho questo microfono. Vabbè, non lo so. Se tu mi dici. Ma tu lo spinotto c'hai del DM1000? Per il DM1000 metto lo spinotto per quel macchino c'era. Vabbè, guarda, se tu controlli l'altro, che riesci, se tutti quanti l'altro suo originale, riesci a farlo, almeno il DM1000, se non sbaglio. Capito? Mettere una puntina fine nel coso e riesci a farlo. Vabbè, ah, se poi fai problemi, me lo dite, difficilmente lo faccio. Non è difficile, però ci vuole un po' di pratica, capito? Dici un bel pratico a farlo perché se li fa tutti lui. Quindi guarda, se ci riesci, se no un attimino, vedi lo gamper, ti avvicini e lui 2 minuti e te lo fa. Stacca quello a 4 e ti attacca quello a 6, capito? Non è un problema. Avanti Marco. Eia. Tanto più che mi pare che su internet ci sia la piedinatura dell'Alan 48 XL, credo di poterla trovare, così basta controllare i cavi giusti, quali sono, no? Bisezione, massa, portante e capsula, ed è fatta, li salvi al posto giusto, ma glielo ho detto, anch'io glielo posso fare, però me lo devi lasciare con calma, perché io lo devo fare un po' rilassato, capito? Devo trovare bene le connessioni, non vado a tentativi, lo faccio direttamente giusto, però per le salature lo devo fare piano piano, capito? E vediamo, dai, vediamo. Siccome lui non lo sa fare, magari non ha esperienza alle sciallature, ecco perché cercava l'aiuto di qualcuno che glielo facesse, o lui, se glielo puoi fare tu, faglielo, dai, fagli questo favore. Aspetta, stiamo parlando già. Oh, scusate, posso? Oh, scusate, posso? Luigi, mi senti? Sì. Come arrivo da te, giusto? Per sapere quanti watt da questo baracchino. Ma non so se siamo 8, però fa se 6 a 8 c'è il rischio. L'ha modificato, non lo so, è un 68 qua noto che l'RFG non agisce, poi il MacGain, boh, non lo so, aspetta, vediamo un po', ok. Forse è un po' modificato, non saprei. L'ho aperto ma non vedo schede in più. Vabbè, dai, ma c'è Gianni, avanti Gianni. Sono rientrato, buonasera a Toros di nuovo, dai. Che devo uscire a fare un po' di commissioni, dai. Sono dovuto scappare da casa. Ciao Gianni, Luca, quell'apparecchio, per essere l'apparecchio che è, esce anche troppo bene. Infatti va molto bene, molto molto bene, Olu. E vabbè, ci avrà 4 watt, quello che c'ha Luca c'ha più watt, capito? Comunque, oggi non c'è il macchino, non ci sono microfoni, il macchino non mi serve. Solo così, il suo originale, lo spinotto vedete nell'altro, e poi io te lo faccio preciso al microfono, all'originale, capito? Lì non solo le ricomichiate, capito? E te lo faccio preciso nel microfono. Mi bastano solo i microfoni, l'originale e l'altro. E io ti faccio le connessioni precise nell'altro, che mi mille preciso a quello. Il macchino non mi serve, solo i microfoni, devi lasciare. Domani lo farò pure come se è fatta, non lo so, dal pomeriggio, non lo so come si esprime tu, capito? Se ti ricordo di cosa domani non lo so, ma se non stai lavorando la cosa sto a lavorare, ma perché ci sono problemi, non stai lavorando, perché tu c'hai il numero mio, pare, non c'è il mio numero di telefono, c'hai tu, perché se no ci sentiamo dopo pranzo e faccio fare il microfono quello che lo trovo su originale con lo stesso. Te lo mando io, oggi è il numero di Gigi, te lo mando io. Ok, te lo mando io. Manda il numero mio e così mi chiama domani, dopo pranzo e si avvicina, faccio. Cappa, già te lo mando io e oggi è il numero, dai. Così ti metti d'accordo che lo dici a Vini, che Gigi già è disponibile, 5 minuti ci mette. Capito? Il tempo di attaccare il saldatore è già fatto, lui è pratico, non ha problemi. Cappa, dai, fate girare, tanto mi preparo, tra un po' la portare il cane. Un attimo che scendo dalla macchina. No, Sì, non è uno, è più che più capposto, più capposto, perché so che c'è un po' bene, perché per il fatto della resina è che sta facendo le lentezze che vanno benissimo, che vanno benissimo, e sta facendo questo Mario Salma, e tu metti su Mario Salma e vedi qualcuno, e sta anche Terzino, e senza, sono abituato di pelo d'acciaio, che campe sta facendo di fuori, e perché c'ha problemi con la, col camion, la resina e cose del genere. Oh lui, io, no, cioè lì, io per curiosità avevo comprato un'antenna Midland per camper, è fatta in resina, no? Alta 1,10 m, e ho detto, beh, non sarà tanto malaccio. Io ce ne scampi liberi, ricezione bassissima e trasmissione bassissima, e tutti quelli gliel'hanno presa si sono lamentati che proprio è così, è un carico fittizio. Non capisco nemmeno come possa rendere così, così bassa, è proprio fatta apposta, non ne capisco il senso. Invece se Mario Crystal la fa tipo bazooka, quella già va molto ma molto meglio. Facendola tipo bazooka mi gli fa tutto l'avvolgimento elicoidale da mezz'onda, non ha bisogno di massa né niente, è molto valida, dai, quella che Crystal sicuramente è fatta così ed sarà molto valida, ma quella che ho preso io, 45 euro buttati, No, però quello che costruisce è una cosa, lo fa lui, generalmente lui, le costruisce lui, le fa per camion, le fa per, le costruisce lui, le io ho visto prove, addirittura la ricezione non trasmette, ma la ricezione che togliendoli il coso dello stilo, se lo mette una cacca, facciamo la ricezione, ho visto le prove che fa lui, io ho visto le prove, ho visto le filmati, sono entrato a vedere, e ho visto questo, poi fa una cosa per il camper, perché poi mi ricordo che c'erano il camper, hanno questo problema, sul fatto che vedete perché resina o da tazionaria o non c'è sezione, cioè così, però le titoli se io non le ho provate, però le ho viste in video, ho visto il video che ha fatto lui, che era sempre facendo cosa, Giovannino l'originale, gli ha fatto lui, e forse gliela anche vista Puccini, quella di Giovannino l'originale, l'ha fatto per quel Mario sta. Oh Gigi, 352 finisce il tuo, come mai c'è Vulcano 2? No, quello aziendale, lascia perdere, l'altro quello finisce 6. No, finisce in 4, lo sei quando finisce. Infatti, poi è strano. Quello era, non c'ho più da 2 anni, quello era con l'aziendale. Mario Scoiattolo. Ma è su YouTube, io te lo so. Questo YouTube dovrebbe darsi. Io lo vedo a volte nel coso, nelle video. Crystal con la K, vero? Sì, mi pare di sì, mi pare proprio di sì. Che lui dice, cercami su Mario Pittazzi. Chissà cosa lo dice, mai. Comunque lui, quell'antenna è uguale all'altra della Sirio, proprio è un carico fittizio. Forse è fatta apposta per quando i camper vanno in colonna, in modo da sentire solo quello che c'è in locale e non sentire troppi disturbi da fuori. Ma è allucinante, l'ho provata da Piazzale Segni, non arrivavo nemmeno alla doccia, lo sai? È positivo, ma qua in ricerca stai parlando come la cosa, è proprio anni fa. L'anno scorso, guarda, si chiama Sigma Camper, no, va, Sigma, Midland Camper 27, e in vetroresina c'è una base dove dentro c'ha delle, dalla bobina c'ha delle saldature strane, non so, è un quarto d'onda, credo, però è allucinante, proprio è un ciodu. Te l'ho detto, non mi sentivo una laterocce da Piazzale Segni. Effettivamente, ma vado a cercarlo io, sono troppo assi, provo io a vedere. Cioè, comunque c'è anche il numero di telefono di lui, di questo Mario. Eia, comunque sì, si sono lamentati. Però mi dice Eugenio, è uguale a quella da barca, solo che quella da barca è bianca. Questa da camper è colore nero. Però mi ha detto Eugenio che se sei in barca, se la usi in barca, l'acqua fa da specchio riflettente e funzionano bene, ma io poco ci credo, però scusa, se uno lo usa sul camper non è sull'acqua, quindi vabbè, quindi l'ho accantonata, dai, l'ho accantonata, perché no. Invece la bazooka sempre che funziona meglio, perché l'antenna bazooka, pur essendo solo 1 metro di lunghezza, dentro è una mezz'onda, cioè tutto quella spirale a volta corrisponde circa a mezz'onda, e quindi la mezz'onda non ha bisogno di massa. Infatti la bazooka ce l'aveva ed era molto migliore di questa antenna da camper. Lo sono trovato Mario Caldi, che Caldi, che Caldi, a fare la guarda del circo colorato nelle cose non mi ha visto, e lo me lo dal antenne scoiattolo, antenne scoiattolo, e vedi libri il film. Sì, l'ho cancellato quello aziendale allora. Sì, e quello non ce l'ho più io. L'ho cancellato. Il camper come fa però, Eugenio? Cioè il camper non è nell'acqua, e come fa a uscire? Infatti, guarda, chi l'ha provata ha detto che è tremenda. Bassissima ricezione, bassissima trasmissione, è fatta proprio così. E infatti chi l'ha avuta l'ha subito cambiata, perché è un pasticcio, non serve a nulla. Aspetta, Gigi, 964 finisce? Sì. Ok, allora è quello che c'ho io sempre, dai. Ne avevo due, quello l'ho cancellato, va bene, te lo sto mandando, Gigi. Sì, ma ne ho visto altri così, fatto, e su lui lo vedo, per ce l'ho come altri, l'ho visto, però va bene, è appena, proprio che per camper, per capo, sapere, poi fanno vedere troppo, per camper, e tutto qua, però l'ho visto in arenata e così, ma qua. E questo va meglio, Bacchi, o sì? Teglia, Luca. Niente, quel macchino là c'ha da cambiare una resistenza, poi si vede che è sciolta, la sono comprare uguale, e poi il LED, ce l'ho già, niente, e poi a posto. Ma LED, cioè, LED da tutti quelli da 12 o l'altro da 20? No, quelli che ci vogliono una resistenza. Io quando ho cambiato la luce a questo baracchino, che è color giallino, no? Bianca tra virgolette, ma è lampadina, Fusaro ce l'aveva, mi ha proposto anche il LED, ma il LED lo volevo originale per il baracchino, e infatti ho messo di quelle lampadinette microscopiche, piccolissime sono. Grazie, vicino e vende con il filo attaccato già, non fai altro congiungere il filo, fa tutto, e illuminano bene anche, sono ad alta intensità di luce. Ehi, già, boh, questo non so, questo è originale, come quella di prima, mi. Non è più bianca, infatti è, sai, tenente un po' al giallino, leggermente. Ehi, lì c'è Luigi, Claudio, Benito. Ciao Benito, con Benito già ci vediamo ogni giorno, va. Ma scusa Benito, dalle con Benito, è una malattia, è Eugenio. Arrivato ci sei. Ma quell'antenna? Quella che c'è tu va bene, mio Eugenio, non è che non va bene, è ottima. Aspetta, con 5 watt in Gigi, da Sirico lo sentivo, mi. Non sai quanto arriva bene. No, quello sì, no, sto dicendo che questo è un cielo, cioè questo le fa questo Mario Salvi, si fa questo che ne è, questo è pro che cosa. Quello fa Giovanni l'originale, poi le fa lui, chi se la cosetta lui stesso, per questa manna, che lo fa. Ma qual è quella che c'è nel camion? Sì. Sì, vabbè, ma il camion è una cosa, no, ma lui c'ha quelle piantine, mi sul fianchetto, c'è la sua antenna, bellina, il baracchino davanti, alla console. Ma non me l'impiantino, dai. Ti ripeto, esce molto bene. Per i watt che dà quella radio, da 7-8 watt, esce molto bene. Adesso poi col DM1000 dovrebbe uscire ancora meglio, ho capito. Oh, tu sei vero, quello che ho fatto, quella che ha messo sopra il campo, quello che ha sopra detto il campo, lì ce n'è uno perfetto, quello lì sei, guarda, sì, quello sopra lui, però perfetto, è il campo, e le comandi di M1000, non è molto grande. Ricevuto lei il numero di Gigi oggi? Vabbè, bisogna vedere i chilometri tra me e te, 20 chilometri devi fare. Attimo, vedi cosa sta facendo, come si chiama, guarda, è pronto, questa antenna è alta, 1,49, vedi, su questo non ride, la sta facendo prove sul campo, ed è più bella sul campo. Gianni? Non so io, questo è il 9 luglio 2016, questa prova è in mare proprio, e c'è un mare vicino al campo, è partito vicino al mare, c'è un contraddetto. Qua c'è scritto, ve lo ricordate la ricezione con Simi 349,0, con tipo in metro risi. Vuol dire, non so io, sono andato a forza. Sì, magari se si va sul canale YouTube di questo Cristaldi si trovano tutti i video. Sicuramente, l'ho già sentito questo nome, è uno che costruisce antenne appositamente per i camper, oggi hai capito. No, ma infatti tu non toccare niente perché l'impianto tuo è perfetto. Vieni buciane come te liscio. Ordinato, perfetto, tutto mammutato, tutto a posto. Lascia tutto uscito. il diavolo tentatore, mettiti un linearetto, e che l'antenna tiene pochi watt. Mi pare che hai detto 50 watt di picco, e allora non è adatta, capito? Fosse una PLC 800, allora li regge watt, ma basta anche 100 watt, 80 watt, 70, un linearetto tipo il 747, e allora oltre al silico arrivi anche a Bonorva, anche più, vabbè dai, io ogni tanto lo usavo in macchina, ma aumenta il segnale, caspita, è un bijou il linearetto in macchina, vabbè dai, non voglio forzarti. Vai lui. Io purtroppo devo chiudere, devo fare una cosa su Gino, vi devo sottare, devo chiudere che mi sta chiamando campo. Ciao Gigi, mi ha fatto piacere, dai, avete sentito. Sistema di questo microfono, poi già di parola con la camera. Grazie Gigi, fatti sentire la sera che ci siamo sempre noi. E così tieni in forma le radio. Avanti Marco. Ciao Luigi, dai, buona serata, buon tutto, ci sentiamo alla prossima. Entra più spesso qua, che io ci ho omologato e non sto più andando sul 45 dintorni. Rilanciamo per Gianni, ci sei? No, aveva parlato per un attimo. Vai Eugè. Ehi, saluta Gigi che sta chiudendo. Andrà bene, ciao a tutti, ciao. Ciao Gigi, grazie, ciao. Avanti lo dovrò mandare, ci vedi, se sono qui o se sei tu. Visto che è arrivato. Sì, non è in tempo reale, prima va al server e dopo un po' arriva alla persona, capito? Ma sto notando i numeri di telefono che sono molto lenti, capito? Mentre invece il video, così, quando chatti, eccetera, è velocissimo. Ma secondo me è un caso. È un formaggio, capito? K. Avevi fatto, genio? Ecco, memorizzatelo, scrivici Vulcano, così ce l'hai. Per qualsiasi cosa hai sempre un appoggio, Gigi è pratico e è disponibile, non ti preoccupare. Così hai finito, sei a posto, capito? Oh, magari, non so me, tu dici che esce bene, non lo so, io ti sento magnificamente col microfono normale, non toccare il microfono normale, tienilo sempre nel camper il microfono normale suo, dentro il cassettino, capito? In caso quello lì non vada bene, attacchi l'altro. Ma lasciatelo nel camper, nel cassettino, non si sa mai, perché questo DM1000 è un buonissimo microfono, però a volte non si adatta a tutti i baracchini, capito? Comunque me lo fai sentire, lo regoliamo bene, una volta che è regolato lasci stare così. E io ti dico, se va meglio di quello normale o peggio. Io spero che non fischi in macchina, perché a me fischia, non vai, non della va, fischia. Forse perché ho la massa fittizia dell'antenna, lui ha la massa effettiva, capito? È poco schermato anche quel microfono. E poi speriamo che vada bene la timbrica, se no se dovesse andare male gli do lo ZG, capito? Gli do lo ZG, meglio uscire a cutti che non cupo, capito? Oh Claudio, soprattutto dalla macchina. Se si è basso, quando la radio è più acuta si sente meglio. Sì, ma poi quello ZG che c'ha Marco è bellissimo, è uguale al DM1000, ok, è uguale al DM1000. Anziché lo slider essere nero o mi pare sia giallino, una cosa del genere, però è bello. Esce bene quello, esce bene. Adesso tu prova il DM1000. Se il DM1000 non va, c'hai sempre la soluzione microfono normale, che è eccezionale, esci benissimo. In caso contrario Marco ti dà quello lì e gli attacchi quello, capito? Non ti preoccupare, in ogni caso tu sei già a posto. Sto dicendo Marco che da Sirico mentre rientrando domenica sera, rientrando mi ha chiamato, arrivi a una bomba. Cazzo, gli amici suoi uno dietro l'altro, manco uno se ne sentiva che. Eia, allucinante, quindi vuol dire che. Ma gli amici cos'hanno? L'antenna uguale a lui o l'antenna piccola? Impianto di plastica, vai, no, io oggi. Sì, però 50 centimetri di antenna, lo credo che non arriva. capito G? Troppo corta l'antenna, non va bene 27, ci sono dei limiti accettabili, ma 50 cm è troppo corta. La mia, persino la mia è alta 70 circa. Capito, Cla, uno ha l'antenna a 50 cm, è per quello che non arriva da Sirico e non rispondi. Non ascoltare altrove, ascolta qua, Claudio. Eia, e in che posizione è l'antenna? Ma non ce la fa, troppo corta. Troppo corta. Per esempio, adesso, no, la Turbo 2001 è un'antenna troppo grossa di bobina, troppo grossa di stilo, no? Per esempio la Sirio, no? La Sirio, c'è una Sirio Performer 5000 che fa le scarpe da Turbo, no? Ma è enorme, grossissima. Però se uno vuole un'antenna lunga ma sottile, cioè tu la puoi avere anche di 2 metri ma più sottile come antenna, basta prendere la Sirio 1000 ed è sottile di bobina però lunga 2 metri, capito? Perché molti sono convinti che l'antenna lunga 2 metri sia enorme, sempre con bobina enorme, con stilo grosso grosso, non è così. Ci sono anche antenne sottili, più sottili, sempre lunga 2 metri. Però sai, per te è ottima quella, perché non va oltre la, non va oltre la, il coso in vetroresina, capito? E vabbè, bisogna fare un impianto come il tuo per andare almeno bene, capito? E aspetta, ma tu come cellula cosa intendi? L'abitacolo? Ah, ok, sì, ci vuole qualcosa che riesca ad arrivare all'altezza della, della vetroresina sopra, no? In modo che la veda, che sia radio trasparente, e allora il segnale viaggia, capito? Se no, quando è troppo piccola, no, non va, non va. C'è un bel gente che si mette antenne piccole, come quella che mi hai fatto vedere tu, piccola, quella azzurra piccola, solo che la portata è sempre limitata, non venuta da va. Ehi, piuttosto le antenne Midland di quel colore, sul catalogo a me mi pare di non vederle. Sto pensando che siano modelli che avevano da tanti anni fa. Chi li vende i cosi, hai detto, gli autogrill? Catalogo, catalogo si dice. No, cataghele, cataghele. Eugì, capito, gli autogrill le vendono, hai detto. Eia, eia, sì, però appunto penso che siano antenne di vari anni fa, che magari sono state invendute, perché sul catale, sul cataghele, azzurra non c'è, la Midland azzurra non c'è che io sappia, adesso ricontrollo, dai, sembra che sia un modello di 10-20 anni fa. Il prezzo è ottimo, vai Claudio. No, ma è buona quell'antenna, a prescindere che è bellina per il lavoro che fa, insomma, è messa anche in una posizione, va bene, è ottimo quell'impiantino, va bene così, non c'è da toccare niente. Per il prezzo e per tutto, anche per come è quell'antenna, insomma, non è molto grande e ingombrante, e fa il suo lavoro, perché si dicono non è dietro l'angolo. Vabbè, io lo sento perché ho posizione favorevole, però arriva molto bene, perciò no, non ci sono problemi. Lascia tutto così, non tocca se è a futidini. Doppio Rucci, sì. No, forse voleva dire un attimo che stava scendendo, capito? ho detto che andava a fare il compere, a fare prendere roba, poi rientra a fare. Ma che non era già arrivato, sta portando il cane, sono già le 8:10. Non lo tocca neanche il microfono Gigi oggi, non lo apre neanche, lo gira col puntale del test, controlla le posizioni e lo fa uguale, non lo deve neanche aprire. Tranquillo, tranquillo, non ci lasciamo a parte, da dire, Gigi è un professionista, sai che c'è così, lì alla 48 ti lo vado a pesi e te lo do a piazzare puro, su. E vabbè, io sto dicendo, non quello lì, ma lì alla 48 lo conosce molto bene, adesso... Adesso vediamo, domani ci passo da questo mio amico a vedere se non ha bucato bene, un piso tuyo. Se no, se non ha bucato bene, mi rivolgo a Gigi. Vado a Gigi, a tempo perso, e glielo facciamo fare a lui. Americano, identico, però con marca Wilson, non lo so, marca americana, e hanno detto quello che è poco schermato e molto sensibile a ritre e rep, infatti in macchina da me lo fa, spero che non lo faccia lui, invece un ZG in macchina è perfetto, non ha rientri niente, certo è più acuto di modulazione, a qualcuno può non piacere, ma l'importante è che esca chiaro, che esca bene, poi se ha i toni acuti pazienza, anzi quando sei basso è meglio avere i toni acuti, Sì, ma guarda, io ti posso dire che nonostante il segnale è chiaro che non è molto forte quando chiama, però la radio è 5 perfetta, perché quando mi ha chiamato lì dalla piana di Sirico era 5, 6 come segnale, sai, non è molto forte, però la radio era perfetta, era 5 perfetta. Poi quando era dentro Sassari che ha separato le gallerie, che era 9.20, 9.30, caspita, segnale ottimo, ottimo dalla 131, l'ho accompagnato sino all'ingresso del prodotto da Santiago Nocca, ma la radio è sempre pulita, bella, limpida, capito? Quindi non ha alternativa lui, se non dovesse andare bene, DM1000 riattacca nuovamente il suo originale. Seia. Se poi volesse un amplificato si piglia lo ZG, se dovesse essere cupo si piglia lo ZG e risolve, tutto lì. Per lo ZG sì, è a toni un po' medio-alti, però non è come la Static che proprio fa zilascamo. La Static che ho preso dall'America è brutto, è veramente brutto. E sai cosa dicono gli americani? L'ho letto su un forum. Gli americani ovviamente la Static ne fanno monumento nazionale, no? Come se fosse chissà che. Invece io l'ho provato, è una gran cagata. Almeno quel modello è una gran cagata. Dicono che gli ZG, hanno parlato proprio dell'MB+5, dice che esce malissimo, che esce proprio una porcheria, tradotto in italiano, capito? Cioè loro che hanno il microfono lì, tutto acuto, tutto metallico, dicono che l'MB+5 esce male, hanno un metro particolare, capito? Io invece ti dico che l'MB+5 esce bene, è la Static che l'ha cagata, scusando il termine. Guarda, anche lì non so se... non è che ti contraddisco, però io guarda la Static che ne ho avuto due tipi, sempre col baracchino allora, tempo addietro, e non andavano male. Avevo la Static che quello sai nero, un po' una forma un po' strana, che tra l'altro era anche grande da tenere in mano, e avevo l'M, il Turner, l'M+2, non quello celeste, e non è che andava molto, molto più forte rispetto alla Static dell'MP2, era forse la mia voce sempre, Marco, ora se sia quella rispetto a voi, però andava bene. Da Palmo era, ha una sigla di, che non ricordo, tipo 876, non lo so, una sigla particolare, quello però aveva la regolazione di volume e di tono, molto importante in un palmare, il volume di amplificazione e il tono, quello era una Static con le palle, invece queste statiche che fanno adesso, almeno il modello che è capitato a me, no? Quello con la griglia a tonna metallica, è una cagata, dai, è brutto, proprio gracchiante, metallico, brutto proprio, ho uscito male l'esemplare, non so, magari dall'America dice questo che esce male lo vendiamo all'italiano, capito? Non lo so, però io non mi interessa più spendere 70 euro per un microfono quando uno ZG o un DM1000 da 30 euro escono molto meglio, cioè escono meglio quelli, che bisogno c'è di spendere 70 per un microfono esce metallico e acuto quando appunto abbiamo roba Propsel e ZG che va meglio. Sì, no, ma il mio era di vecchio stampo, ti parlo di tanti anni fa, era quello grande, ciccione, con tipo rettangolare, esteticamente non bellino, con la rotellina sopra, andava molto bene, c'avevo quello e usavo anche l'M+2 da Palmo della Turner, con baracchini naturalmente, il 23 canale, quindi forse anche per quello che uscivano bene. Quello migliore però che ho avuto, piatto, proprio come un telefonino di ultima generazione, era il Savelta La Palmo, favoloso, con la rotellina, lo stesso al fianco, però ce l'aveva la rotellina, favoloso, era grigio acciaio, cromato praticamente, una favola quel microfono, non l'ho più trovato, ce l'aveva nel Multimove 3 Roberto Meccanico ce l'aveva in macchina, c'eravamo tutte e due la regata allora della Fiat, ed era una cannonata quel microfono, ma veramente una cannonata. Beh sì, probabile. Mi pare che si chiami quel modello 876M6, che ricordo male. Quello era veramente una static con le palle, però purtroppo non lo fanno più da anni che non lo fanno più. Adesso fanno questo Rod Devil, fanno questo, il mio si chiama, come si chiama il mio? Il D, come Domodossola, D104M6B, una cosa del genere si chiama, però non è buono, non lo so. Io anzi dall'America l'ho pagato meno, me l'ho pagato un 50-55 euro, compresa la dogana, ma in Italia lo vendono a 70 euro, mi ti rendi conto, per uscire così, metallico e gracchiante, non ti innandi. Oh, scusa, vai. Niente, dai, come va adesso? Ho chiuso tutto, ho messo la, come si chiama, la lampadina, sono Smith, niente, come va? A posto? Bella è la radio, 5, perfetta, sembra che già non amplificato, Luca. Cappa, dai. Andava, dai, che io vado a mangiare adesso, da un'altra parte, alla prossima, vi ringrazio, alla prossima, ciao. Ciao Rugarie, ciao, alla prossima. Allora, il mio Marco, per farti capire, era uguale come sagoma di microfono, uguale al Diavolo Rosso, però era tutto nero con la griglia cromata. E chi lo sa, magari era davvero il 576, l'876, non mi ricordo la sigla, non me la ricordo. Insomma, gli Astatic di una volta erano migliori, gli Astatic di adesso non è che vadano tanto bene. E poi spesso ci sono copie, lo sai, ci sono copie fasulle degli Astatic fatte dalla Cina. Cosa ne so se a me questo mi ha spedito una copia fasulla? Non lo so, però hai pienamente ragione, perché ho notato una grande differenza. Ad esempio, questa che sto usando adesso è l'MC60 della Trio, questo è Trio Kenwood, ok? Quindi proprio con l'alberino, prima della scritta Kenwood c'è scritto Trio, MC60 della Trio, quindi questo è il microfono che praticamente andava della Trio sul i vecchi Kenwood marcati Trio, come 820, l'830, il, capito, il 930, il 920 della Kenwood. E rispetto all'altro MC60 della serie nuova, MC60A, ne ho due, questo ha una caratteristica di modulazione molto più chiara, perché io l'ho provata in cuffie alla stessa distanza, senza toccare i microfoni della radio, è molto più chiara. Quindi è vero che i vecchi microfoni che facevano un tempo sono, rispetto a quelli di adesso, forse con una caratteristica superiore, non lo so, però ti ripeto, ribadisco che quella static, che era appunto la stessa sagoma del Diavolo Rosso, fatto molto dopo, il mio era tutto nero, con la rotellina sopra e la griglia dove chiaramente appoggi la bocca era cromata in grigio. Ecco, e vai a sapere qual era. Purtroppo, poi ce n'era uno da tavolo di Astatic che mi stava allettando da tavolo. Però per le poche recensioni che ho sentito non va bene, l'hanno criticato molto, allora no, mai più, meglio un MBP4, un MBP5, guarda, francamente spendi meno e il risultato è buono lo stesso. Sì, capo, non è quello il problema, è che purtroppo microfoni ne hanno fatto tantissimi, però non c'è niente da fare, i microfoni di vecchia generazione, come il Turner, prendiamo il Turner, no? Il Turner è quello grigio originale americano che io ce l'ho, rispetto a quello nero, Turner più 3B, è una grandissima cagata, nel senso che c'è un abisso di modulazione tra quello americano originale e il Turner più 3B, è un'altra cosa. Visto. Le cose le fanno più in economia in seguito, capito? Di solito sono sempre migliori quelle di una volta. Bene, vediamo se è rientrato Eugenio. Ma chissà perché mi viene sempre in testa questo nome, Benito. Sai, come nome, li vedo simili, Eugenio, Benito, no? Eugenio, ci sei? Sì, ma non ci avventavo io. Eugenio, ma niente, calzone a pranzo, infatti ho scritto, ma a pranzo? No, ma da insultare. Ehi, la tua vice me ne manda, Eugenio, ma stai scherzando. Non è un problema, capito? Non è un problema. A proposito, non aggiunti su a Capo di Bugnetta oggi, attento Massimiliano. Oramai da quando c'è la macchina nuova che è sempre in giro, sfrecciando per le strade, che vabbè. Comunque a pranzo stavi mangiando quella roba lì oggi. Cosa rete? No, io a pranzo no, ma a cena, mi anche stanotte c'ho pizza, va, non le batte piene, perché mia figlia quando è in chiusura quello che ammazza lo porta a casa, capito? Lo divide, se lo divido insomma tra i colleghi e poi lo porta a casa, perché sa che a me piace un bel. E quindi anche ieri notte lo stesso ne ha portato 3-4 tranche di quelle un po' farcite. A pranzo no, perché a pranzo ho mangiato la pasta, però stanotte lo stesso, pizza, borra e vai. Vabbè. Adesso bisogna che faccia qualche trasferimento a casa di Marco, quindi ne mando un po' di pizza. Purtroppo la pizza buona come piaceva a me adesso l'ho persa per sempre, per colpa di quel pellegrino. Guarda, quando vogliamo andare andiamo, quando ci pare ci piace, capito? Perché io non devo niente a nessuno, quindi quando vuoi andare tu sei con me e noi andiamo, non ce n'è problema. Quando vuoi me lo dici e noi andiamo a mangiare la pizza lì dove c'è lui. E non può dire niente. Ma non è che mi sputa nella piccia poi. No, non ti preoccupare, ci rimango io lì mentre sta facendo le pizze. Non ti preoccupare, tu quando vuoi, a me me lo dici, ci organizziamo con Gianni, capito? Mio genio, intanto da lì dobbiamo passare noi, capito? Andiamo con una macchina, siamo in tre, passiamo a prendere il genio e andiamo a Campanella. Problemi non ce ne sono, quando vuoi, basta che fai un fischio. No, vabbè, diciamo solo che era un ex amico che si reputava amico, mi ha fatto sparire un tablet da 179 euro, me l'ha chiesto perché gli serviva, me l'ha chiesto per favore. Passano le settimane, passano i mesi, cominciano a rispondere più al telefono, oppure lascia la segreteria, sparito. Recupero crediti, cazzo. Vabbè, purtroppo amicizie a conto loro sono, non lo so. Vabbè, pazienza, non ne parliamo, dai. So che andare a Campanella, Claudio, è distante per una pizza, dai, ci abbiamo tante pizzerie buone qua intorno, allora preferirei andare a Bruno Torres, dove ha detto Gianni, proviamo. Va bene, proviamo. E cosa hai mandato, genio? Beh, non l'ho visto il campo. Ah, quanto è lucido. Bravo. Ah, mi ci vuoi niente, boh. Sa poco mi mandi pure quando sei mutandi. Ma che mi ha mandato il campo è lucido? Boh. Una cena, sì. Una cena, il genio. E non pare, Marco, ho visto, è subito disponibile. Se c'è da crepare, lui è pronto, No, no, però è dura faccia, di che si goce. Ci vuole gente cattiva a fare quelle cose oggi, ma cattiva, cattiva, monella, mi capito? Ehi, vabbè, per quel poco che ti conosco, ma tu sei tranquillo, dai. Non ce l'hai la faccia di andare da uno così, oh, dammi ciò, dammi quello, e pum pum pum di cudi, così fai. Ui, ui. Vabbè, pazienza. Devo imparare sulla mia pelle, dai, è giusto. Chi è troppo buono è fesso. Chi è troppo buono la prende nel questo, vedi, come Pomponio con quell'apparato. Ma Pomponio, perché non sta più entrando piuttosto? Boh, ci ha impegnato da qualche altra parte. Oggi l'ho sentito in PMR. Molto male. Non so, non mi interessa. Continuo. Ma dite, ognuno deve fare quello che vuole. Noi qua siamo e qua rimaniamo. Io ascolto perché ascolto sempre da tutte le parti. L'ho sentito parlando in PMR. L'ho sentito, quindi è entrato lì. Poi qua ogni tanto entra, l'altro giorno l'ho sentito sul canale 20. Molto male. Ma a me non mi interessa. Io lascio tutti liberi a quello che vogliono fare. Poi, come vedi questo canale, sono contentissimo perché è sempre occupato, c'è sempre gente. Entra Alghero, entra Porto Torres, entra chiunque, entrano tutti. La sera ci siamo sempre a fare due chiacchiere. A proposito, oggi non abbiamo fatto l'appello e all'appello manca Gianfranco. Attento Gianfranco. Ci ho pensato anch'io a Gianfranco, mi chiedevo come mai non fosse entrato. Ciao Gianfranco, illuminaci. No, è un po' solo fare l'appello per sapere se eri all'ascolto. So che tu ci sei sempre e quando hai un secondo entri a chiacchierare. Buon proseguimento di messa a punto. Ok, va bene Gianfranco, va bene. Genio, ma a Torra chi tu l'hai mandato lo video? E cos'è? Perché gli hai mandato il camper? ma sicuramente non come quello, di la verità, dai. Nel tuo gruppo il tuo è il più bello di tutti. E io vabbè, ma il tuo si vede che è bello nuovo. Nuovo e ben arredato e con tutti gli opzionali, capito? Si rivengo io l'altro e ti dico sì, oggi quello è migliore del tuo, ma sono convinto che il tuo è più bello di tutti. Ehi, come tutte le cose, però tu non lo puoi vantare. Però se io ti dico che a me piace più il tuo rispetto agli altri che c'hai degli amici tuoi, allora vuol dire che funziona così, è così, capito? È così. Caro Marco, ma ho ragione, 9-25, oh, quei giovecci sono delle versioni vecchie, quelli io non me ne intendo, però rispetto a quello tuo, quelle sono versioni vecchie. Sì, quelli sono vecchi, è vero. Bello il camper, mamma mia, io avrei fatto il nomade proprio, lo sai, senza fissa dimora. Fa vedere i nomadi, oggi fa vedere le mani dei nomadi, Emmy. Oh, sono andato per, quindi canta, che canta ieri gioco, non l'ho mai visto, non mi interessa vederlo. Ehi, ma a me non me la putti nuda, io non l'ho mai visto, capito, non mi interessa vederlo, se capita che lo vedo, gli giro la faccia, anzi, mi metto le cuffie. Ma chi? A uno che canta, un amico di Eugenio. Ah, perché? Non ti piace quel genere di musica? Assolutamente no. Sì, a me fuori tutto ormai. Dopo quella mondezza che ho ascoltato io di black metal, death metal, poi ascolti. Tutto quanto, un po' meno quella italiana, dai, però. No, ma era mai fanno canzoni monotone, Giovannotti, Erosio Mazzotti, a me piacciono le canzoni anche vecchie, quelle dei Pooh, eccetera, ma no, ma non mi dite due più nulla. Vabbè, i Pooh va bene, posso capire. Ma ero sano mazzotte, non mi si vada, dai, con quella voce nasale. Ah, sei un giro di te, giura. Vabbè, allora invece di essere ammazzotti posso cantare l'ex mogliere, vai anda. Ma che? Ebbene, non va. Ieri stavo guardando uno straccio dell'Isola dei Famosi, la verità. Perché c'era Napoli Real Madrid, e poi mi è dispiaciuto. Per 60 minuti ha dominato il Napoli, Don Marco, con 1-0, il Tomici vero per passare il turno. Ha vinto il Real Madrid in casa del Napoli 3-1, allucinante, allucinante quella squadra, non ha fatto niente, nulla, ha segnato 2 gol di testa su calcio d'angolo, allucinante, ma ha fatto una partita micidiale il Napoli, micidiale. Come te la palla, ragazzi, è eliminata dalla Champions. Ho saputo. Vince il più forte, il più bravo, quello che è più in forma quel giorno, ci sono tanti motivi. No, guarda che Real Madrid non ha fatto nulla, niente. Hanno vinto con un risultato fasullo, capito? Perché il terzo gol l'ha fatto Morata a un minuto dalla fine di rimbalzo. Gli altri 2 gol su calcio piazzato, non hanno fatto un tiro in porta, hanno vinto con un risultato fasullo, bugiardo, capito? Perché il Napoli ha dato lezione di calcio, è quello che mi dispiace, io sono sportivo, capito? Quando la squadra gioca gli ha dato lezione di calcio, non hanno fatto nulla, hanno vinto con un risultato bugiardo, hanno vinto proprio su calcio piazzato, come che stai tirando 2 rigori, la stessa cosa, 2 colpi di testa di un difensore, che è micidiale sui colpi di testa, quello, micidiale, capito? Hanno vinto però, Napoli può aver giocato bene quanto vuoi, ma hanno vinto quelli, e a culo anche me. Nel calcio conta il risultato, purtroppo. In Spagna loro hanno perso 3-1, il Napoli ha perso 3-1, capito? Quindi avevano già un gol di vantaggio fuori casa, bastavano 2 gol, 2-0, ed era a posto. Invece in 10 minuti, in 5 minuti, 2 calci d'angolo hanno abbigliato 2 gol, e allora devi fare 4 gol non si fa fare il Real Madrid, capito? Dovevano vincere 4-2. Anzi, col 4-2 passava anche il Real Madrid, perché ne ha fatto 5. Quindi lascia perdere, una delusione allucinante. Mi sono incazzato, io sono Juventino, mi sono incazzato, perché meritava veramente di vincere. Adesso aspettiamo la Juve, però la Juve l'ha vinto 2-0, quindi le basta anche un pareggio, ma allo Juventus Stadio lo portano in bigliate 3, quindi non ve ne è problema. Avanti genio, l'hai vista? Vabbè, sarà così, però oggi meritava di vincere, veramente meritava di vincere. Avanti Marco. E chi lo sa, nel calcio c'è troppa cionfami, troppi intrallacci, girano milioni di euro, per non dire miliardi. Ci sono intrallacci che noi non sapremo mai, partite vendute, e ne so io, può essere. Certo i tifosi napoletani si saranno tagliati le balle di notte, cioè il giorno, no? Saranno rimasti leggermente male. Anche napoletano, non se ne può dare colpa comunque oggi, perché ti ripeto, il Napoli ha giocato veramente molto molto bene, ma molto bene. Eia, ma vabbè, come hai detto tu, quello che conta è il risultato, poi che siano intrallati o meno, non si sa. Vabbè. Ok, caspita, avete detto che ore sono? Le 9 meno, ormai, qualche ore sono? 9 meno un quarto, quasi. Eia, e poi vedo se c'è qualcosa in TV da vedere che sia degna di essere vista, se no mi guardo roba mia, film miei, tutti scaricati a sbaffo, serie televisive scaricate a sbaffo. Alla faccia della SIAE, vabbè, quando sarò ricco e famoso mi comprerò i film, i DVD e Blu-ray, finché sono povero agisco da povero. E... l'importante è essere onesti, capito? L'importante è essere onesti, non truffaldini, non qua qua qua e non miserabili soprattutto, capito? Poi avere ciò che si ha, io mi accontento sempre, l'importante è quello. E quello è il punto, che lo slogan dice copiare film o scaricarli, insomma, senza pagare è come rubare. No, io invece dico che far pagare un DVD o un Blu-ray nuovo, quello che costa, quello è rubare, capito? Quello è rubare, farci pagare un film magari vecchio, quello che fanno pagare, capito? Vabbè. Sia benedetto Santo Emule, Santo Emule, che è il programma per scaricare musica, film, serie TV, tutto a sbaffo. E io ti dico, la matta che te ne varia, capito? Che io faccio tutto a pagamento. E vabbè, ma le partite non le vedi? Partite no, quelle sono a pagamento. Ciao Elio, dimmi, non sei d'accordo? Non serve. No, ma sono d'accordo sotto alcuni aspetti. Alcuni sì, ma alcuni no. Lo so, anch'io mi faccio il discorso da me. Però, te l'ho detto, io sono povero, agisco da povero, quando potrò me li pagherò a prezzo pieno. Ma per carità, ciao Claudio, comunque ciao Marco, no, ti capisco, per carità, ma io non ti capisco, però purtroppo non mi faccio ricoprire niente. Se io ho un'azienda e faccio qualcosa, poter lavorare, pagare tutto il lavoro che c'è stato per fare un film, attori, cast, cinematografia, doppiaggio, qualcosa ti deve pure rientrare, no? Non è che è così per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda non è questo rischiare, per vedere ci sono delle cose che purtroppo si acquistano che non potrebbero essere acquistate. Già mi hai capito, alcune cose purtroppo ci sono delle persone dietro che lavorano e come tutti i lavoratori devono essere pagati. Mi dimenticavo. Sono d'accordo, e questo te lo dice uno che fa quel mestiere, Marco, quindi è buon tenito le poche parole, no? Ci hai capito, è così, no, io grazie a Dio ho tutto a pagamento, c'ho un Mediaset Premium, e la settimana scorsa addirittura abbiamo attivato anche Sky, c'ho la parabola nel Poggio, e c'ho anche Sky, quindi c'ho un Mediaset Premium, c'ho Sky, non mi manca nulla, tutto quello che serve, film a go-go, tutto a pagamento, un po' caruccio Sky comunque rispetto a Mediaset Premium, ma non me ne frega niente. Genio, lo senti, l'hai sentito a Elio? Sì, ciao Elio, buonasera, ben ascoltato, avanti Genio. No, yeah. Sì Elio, poi hai ragione, io lo so che hai ragione, però questa SIAE è un organo che si occupa di... così anche di dare le quote agli artisti, ma anche ci campa sul lavoro degli artisti, dei film, dei musicisti, ci campa, è come un organo intermedio che ci mangia sul lavoro degli altri anche, ci mangia molto, cioè ci campa la sia sul lavoro degli altri, non lo so, vabbè. La SIA è una brutta bestia, diciamo, lo so, io già sono, ero tenente alla pirateria anche in altri campi, dai, viva la pirateria, hai ragione Eugenio, lui sì che mi capisce. Lecchino! Ti regalo il microfono da tavolo! Cane, oh, che... c'è, ti sei venduto, ti sei. vabbè, e allora Elio, a Mogol l'hai sentito, è ancora Udia? Sì, capo, sono sentiti quando lì, ieri sera. Ieri sera. E loro sta a posto, sto lavorando. E ritornando al discorso di Marco, anzi no, anche di Eugenio, l'ho detto, ma sì, ma lo so Eugenio, io sono piccolo, c'è una piccola stazione sotto questo basso, purtroppo. Non ci sono. E comunque dal discorso di Marco, mi spiace però, ma che si sì, la FIA, ti capisco che non è un ente morale che diciamo, salvaguarda gli interessi degli autori e editori. E purtroppo questi autori e editori, non avendo pensione dello Stato, si sono creati questa società che tutela le loro composizioni e quant'altro che uno possa realizzare come artista. E almeno non dico molto, c'è anche loro una pensione, no? Però vedi, non ci sono molti artisti che stanno facendo la fame, non sapete tutto. E ci sono artisti che invece con i concerti riescono a farsi qualcosa, però non pensate che se non sei conosciuto bisogna proprio la fare di questo per quanto riguarda quello che stai parlando, quello della società autentica. Lo conosco bene perché ci ho collaborato, però che io non so come. Cosa ti volevo dire? Sì, un'altra cosa. Qualsiasi attività deve essere riguardata. Adesso tu sei domani, Claudio, lavora nel settore dell'acqua. Mi ha detto mai che l'acqua deve essere pagata, per dire. L'acqua dovrebbe essere gratis, l'acqua è della terra, non è che la costruisco. Eppure devono essere pagati perché ci sono delle persone come Claudio Pietro che lavorano per le tubature, per quello, per pulire, per fare, per portare l'acqua nel paese. Ma è così, è normale. Scusa, eppure l'acqua dovrebbe essere gratis. Ma non è così. Perché è giusto che c'è gente che lavora che deve essere pagata, appunto. Un grande discorso che sto tenendo alcune cose qua. Ci sentiamo, quelli che sto ascoltando. No, ho capito, ciao Giotta. Ah, ok, aspetta l'accento. Ok, siamo, ciao, buona serata, sono in ascolto. Ciao, ripetimi il classico. Cioè, giù con pregiù e noi con pregiù tu. Va bene, ciao Elio, buon Querix, grazie alle due chiacchiere dell'intervento. Ciao nuovamente anche a Gianfranco. Molto bene. E vabbè, Marco, sono discorsi diversi questi, ognuno pensa come lo deve pensare. È chiaro che Elio va in contratto perché lui lavora in quel settore e non è che si sente toccato, per carità, però per lui viene a mancare quel budget che serve per mandare avanti l'azienda, se tutti la pensassero in quella maniera, capito? Era bravo Elio, uscì 9.40 qua, era bravo, è che Eugenio ha una posizione un po' balorda per la tua, non è questione di che esci in basso, perché siete in due posizioni completamente diverse e abbastanza chiuse una con l'altro. Va bene, avanti Eugenio Lecchino, che non sei altro, che ti sei venduto a Marco, che... Io glielo appoggio. Sì. Stavo parlando di te, Antonè, come mai non sei più entrato? Qua non me ne parlare, guarda. Non vuoi parlare perché sono incasinato forte, ma sai cosa vuol dire incasinato forte? Faccio fa poco di entrare campiero a casa, quindi figurati tu. Mi ero truffato lì alla... dovevo ricoverare il mio fratello, dovevo restituire 10.000 euro in contanti, 50 euro al mese, figurati tu, hai capito? Finita la pacchia, buttato all'ospedale. 10.000 euro? Ma non erano molti di meno? Fai 515 euro ogni mese per un anno e mezzo, quanto sono secondo te? Più di 10.000. Ah, ma non ci sei arrivato. Mi hanno truffato. Ma truffato o è roba che doveva essere pagata e non è stata pagata? Cioè io non so come sia il meccanismo, ma adesso con Giampiero a casa come fate? Vi dovete dare i turni? Allora, il discorso è questo. Quando una persona viene ricoverata, innanzitutto da questo che parla così in automatico viene tolto l'accompagnamento, invece cosa ha fatto quella del comune? Non ha ripreso niente, né a me e tanto meno agli altri. Loro sono per un anno e mezzo mangiati i soldi dell'accompagnamento. Una volta che me mi è arrivato il, dopo che mi ha fatto il, come si dice, il controllo per vedere in che condizioni era lì all'ufficio legale dell'INPS, che gli ho detto guarda mio fratello è alta gesta, ricoverato e cosa del genere. Si sono accorti in pratica quello che è stato pagato l'accompagnamento, non doveva, addirittura non doveva neanche esserci, dovevano fare in pratica un foglio, quindi del comune, in via Zara, per togliere l'accompagnamento. Una volta che tu sei in ospedale, l'accompagnamento viene automaticamente eliminato, perché lo Stato paga in pratica 2000 euro al giorno per tenerti in ospedale. Il discorso è quello lì, hai capito? E quindi vogliono indietro l'accompagnamento, è così? Un anno e mezzo di accompagnamento vogliono, così è a 50 euro al mese, per adesso, siccome mio fratello non è che fa 500 anni, quindi tu fatti i conti, mio fratello ha percepito l'accompagnamento dal 2016 in poi, fino adesso. Percepito nella carta però, così Antonè? No, percepito proprio, io in pratica pagavo. La retta di mio fratello con l'accompagnamento di mio fratello, così, hai capito? Ogni mese andavo, pagavo 667 euro, 700 euro, 667 euro, 700 euro, capito? Tutto lì. Come sono venuto, come è arrivato il foglio da lì, dopo che hanno fatto il controllo lì all'ufficio legale, il risultato è che in pratica mi ha fatto quei soldi, non lo va percepito in teoria. Cioè non mio fratello, il saggista. In pratica ci hanno pigliato senza dire niente, l'accompagnamento è nero, hai capito? Tutto lì. Che casino, hai capito perché no? Sempre impegnato Antonello, ma io l'altro giorno l'ho sentito e si lamentava di questa cosa, non ti ho detto niente Marco, ma sapevo che era incasinato per quello. Guarda, non so dove tu, non so la verità, dove mettere la testa per questa questione qua. C'è un avvocato in mezzo adesso, adesso vediamo un pochettino cosa, se riusciamo a recuperare quei soldi che io ho versato. Sono versati io, hai capito? Come se questo, o l'appartamento o la campagna, quello che è, il discorso è quello lì. Tre cose, per una stronza, messa d'accordo, lì, a Via Zala, presenza sociale, con saggezza, hai capito? Uia, Marco? Sì. Ma se l'errore l'ha fatto qualcun altro, o l'intrallaccio l'ha fatto qualcun altro, perché deve pagare Pomponio? Tu dici perché siamo in Italia, così è. Cioè ci perde sempre il diretto interessato, così è. Ci perdo io in pratica, io lo restituisco adesso, dalla pensione di mio fratello, che già hanno dimezzata da 900 o qualche cosa euro, togliere 250, a 250 in pratica 150 euro ogni mese sì che lui campa, quindi lui mi ha fatto campare con 200 euro al mese fino a pagare tutti questi soldi qua, hai capito? Dall'Ips, perché in pratica quando tu ricoveri una persona in ospedale viene pagata dallo Stato, il discorso è questo qui con la comunità legge che c'è adesso. E quindi non percepisce più, c'è un pratica, l'accompagnamento ti viene in automatico tolto. Hai capito Marco? Cos'è il discorso? Purtroppo a me non mi hanno detto niente, né la sede sociale è stato detto gli altri. Quindi io adesso mi sono trovato, quando mio fratello ha fatto la visita all'ufficio legale dell'Italia, sì. E gli ho detto, mio fratello l'ho ricoverato, e ho ricoverato, ho detto alla saggezza, gli ho dato il foglio. bagno, lì mi è arrivato il fuoco, in pratica la pensione ce l'ha sempre quella del 100%, che sono 200 e passa euro, 289, togliere i 50 euro dell'assicurazione che ha fatto lui, poi da vita, più altri 50 che deve restituire in pratica per questa storia qua, hai capito? Finché lui tappa. Sì, sì. È un casino, solo che questi soldi dell'accompagnamento se li è tenuti chi? L'ospedale? L'ospedale se li è intascati. E allora perché non li restituisce l'ospedale? Dice tutto, senza dire niente, hai capito? In commuta con questa situazione che c'è lì in Via Zara, al primo piano, tutto lì, perché non ha detto niente, è stata zitta e basta. È stata una persona, aveva detto guardi che non possiamo ricoverare lì, l'esercente invece cosa ha fatto? Ha ampliato e l'ha ricoverato lì immediatamente, perché non ha visto i soldi, come dire, la persona l'ha ricoverato loro, hai capito? Ciao Luigi, fate sentire domani, ci sentiamo. Buonanotte, saluti a casa, vai Marco. Deia. Ciao Eugenio, stazione B2, B al quadrato. Ci sentiamo domani, dai, se salvo imprevisti. Ok, vai Claudio. Io ho già salutato Eugenio, ciao, buonanotte, a domani, alle prossime. E Antonio, vedi di provocato risolvere bene questo problema, perché siamo alto di piedi. Infatti ho fatto causa, a parte che non risulta neanche registrato lì alla cosa, quanto sembra. Quindi adesso vediamo un pochettino come mettiamo le cose. Insomma, insieme con l'avvocato, consegnare tutti i fogli. Ecco, quanto sembra lui è nero lì, figurati tu. Cioè, l'ho fatto entrare là proprio all'ospedale, così è. Fate uscire sul giornale la cosa. Sputtanateli. Una tuffa l'ho fatto, una tuffa la in mia sala, hai capito? Con le... in pratica la amicizia che c'avevo lì a Sagesta, magari anche qualche altra vita, questo non lo so. Comunque Sagesta è così. Perlomeno. Adesso vediamo un pochettino quello che uscirà fuori. Vabbè, piano piano qualcosa uscirà fuori. Addirittura avanti ieri che sono andato io verso le 8 e mezzo alle 9, dice mio fratello si è suicidato, anzi stava suicidando. Visto la cosa che c'hai tu, a casa tua Claudio, quella delle tappavelle, cioè stava la trovata, dice un'infermiera, si stava dice, in pratica succedeva con quella, ha detto fa la cosa, ha detto fa a cagare, così ho risposto. È un casino, vero e proprio. Devi stare un po' più attento a Antonio, perché fidarsi di queste persone al mondo d'oggi è un casino. Va bene, dai, qua è pronta la cena, oggi abbiamo tirato un po' più a lungo. Ciao Antonio, auguri, cerca di tirarne i piedi, dai, poi con calma ci sentiamo. Ciao a te Marco e chiunque fosse in ascolto. Vado a cenare, buonanotte a tutti, a domani, ciao. Marco, riprendi. A te Marco, comunque Claudio, che appena posso fare a casa, forse è meglio. Ma se è meglio così la verità, guarda, non faccio più sbagli di leggere in vita mia. Ecco, segnalo il male di gente strutta. Sto portando a casa, a casa di Giovanna, è tranquillo, beato e fa quello che vuole. Ma è più una cosa del genere, guarda, fammi mettere in culo all'ospedale, mai più guarda, e trovo una cosa del genere, guarda, che fanno così, guarda, figlio cazzo, li suicidi, li ammazzo, a un certo punto, perché non è possibile, solo per i soldi, hai capito? Solo se lo metto per i soldi. Incozzato in casa da un coso all'altro, che non è possibile guarda. Mamma mia, guarda. Meglio niente la vecchia, guarda. Meglio che non capita a nessun altro quello che è capitato a me, perché non è possibile, cioè nel senso sociale in Via Zara, che sia in comuta, insieme in società, insieme a queste vite qua, perché non è possibile. Sembra di lasciare i bambini per dire che gli elementari a mettere in una scuola a casa di qua, tale uguale. Poi ti picchiano cosa vuoi dire, tale uguale. Sì, è così proprio, cioè un manifestismo totale, un sistema corrotto, capito? Che non viene bene neanche. neanche a dirlo. Mi dispiace Antonio, cerca di tirarne piedi, rimboccati le maniche, di non sieggiare, fai quello che devi fare e poi ci vedrà. Ok, dai, ti saluto, ciao a tutti, Marco, riprendi. Ehi, Antonè. Caspita, che casino, casino. Buona cena, Claudio, dai, adesso vado anch'io che ci sarà qualche cosa in TV. Antonè, boh, sì, fate, seguite la cosa legale, non lo so. Che pasticcio, guarda, che pasticcio. Vabbè, vedete cosa vi dice l'avvocato, se si può chiarire la cosa. Oh, macello qua. Guarda, è un casino, vabbè, veramente è un casino. Guarda, faccio... ti mando su WhatsApp la foto di Giampiero, cosa gli ha fatto, cosa gli hanno fatto nella gamba, anzi cosa gli hanno messo, perché si è graffiato, è una cosa allucinante, no? Vabbè, guarda, è come se tu avessi preso un cavo elite e avessi messo 2 mm di gas isolante, invece è bel cosa, guarda, una cosa, guarda, assurda, mai vista in vita mia. Anche all'ospedale. Guarda, domando, guarda, perché che cazzo tu? Mai più, guarda, una cosa del genere. Se vedo una cosa del genere, guarda, figlio ballo di cazzo gli ha fatto un sistema, perché non è possibile. E sembra di essere dentro una scuola, cioè un asilo, una scuola elementare, cazzo, fanno quello che vogliono. Hai capito, di là. Io mai avrei pensato una cosa del genere, la verità. Mai mi sarei aspettato una cosa del genere. Quando c'è i soldi c'è un conto, quando il soldo non è più, cioè lo buttano fuori, ma sei scherzato, non esiste, non esiste. Non lo pigli da prima, no? Sai qual è la pensione sua, no? Invece cosa fa? Lo fanno, sono stati zitti, hanno pigliato l'accompagnamento in meno, hanno fatto una specie di truffa, ecco, quello che ci rimetto sono io, io ho pagato 10.000 euro. Cos'è questo? Dici, ma è casa mia, perché dici, non è forse un cazzo. Hai capito che l'ospedale. Poi, sono di danno. Intanto, devo avere la campagna e pagare a loro. Dopodiché, quando sarà, dire, dal docente sarà in piatti, quello che è, si ricoprirà qualche cosa. Scusa. Non è assolutamente giusto, allora, meglio prevedere che curare. Qualsiasi persona, guarda, io mi auguro che non ci faccia nessun altro, perché sapendo una cosa del genere, guarda, forse meglio stessi non parenti a casa che trovarsi in quelli condizioni. Mai. Mi sei detto, sei morto. Oh, boh. Ma cioè, cosa gli hanno fatto la gamba? L'hanno legato la gamba? Cosa gli hanno messo? Nulla, ti mando la foto, poi faccio vedere adesso, dalla gamba. È da ridere, è veramente da ridere. Stamattina sono messo a dire di cose di infermieri, perché gli ho detto, guarda, ho controlli la gamba, come hanno tolto, le gambe, mezzo chilometro di gas sotto. Sotto cosa c'era? Sorpresa c'era. E te lo faccio vedere. È da ridere. È da ridere o da piangere? No, da vivere, capito, meno male, già è tranquillo, grazie a Dio. Almeno quello, ci ha mangiato tre banane, ci ha mangiato da mezzini. C'avevo la fame, figurati tu. Lo mangiava prima. Ma si sta bene, almeno quello dice, ah, ha mangiato la reme, sto bene veramente, mi ha detto. Come lo mangio? Prima non mangio, non mangiavo nulla, hai capito? Quello dopo non lo mangiavo per niente, alla sera. Ah, pure, cos'è? Li pigliavano per fame, per risparmiare, per carità. Sono tutte così, mi, quelle strutture. Te le raccomando, mi. Vabbè, guarda. Come sono andato l'altro giorno, mi sono incazzato. Facciamo la fotografia, mi. Già, mi, poi direi... Tu vuoi che sono fatta mettici tutti quei cubi. Io ci riesco la verità. Sì, ma dopo ti faccio vedere perché la vita. Due minuti, sono fatto. Su WhatsApp. Ehi Antonè, guarda che devo anche chiudere, dai, che sono tutta la sera in radio. Quasi tutta la sera, dai, sono stanco adesso. Mandalo pure però, mandalo pure che me lo guardo, dai, poi sentiamo un altro momento. Che dire bene, che problema è quello? Ehi, mandalo pure, dai. Poi già ci sentiamo, vediamo uno di questi giorni, ok? Sì, d'accordo, ti posso provare, io sono veramente stressato stasera. Mi dopo, non solo l'altro, da poco qua. Mi hanno chiamato a mezzogiorno, mi hanno chiamato i due, all'ospedale. Io figuro, salendo, scendendo, ogni giorno. Ehi, dai, Antonè, dai, sentiamo. Sono cotto, cotto tra virgolette, non ho bevuto, dai. Manda pure, poi già sentiamo un altro giorno. Ecco, non c'è problema. Domani io già non sono cotto, però poi mi racconto a Franza, la verità. Perché tutta la mattina giro la padellata, per gli uffici, e cosa del genere. A un certo punto arrivi alle due, non raggiungi più, la verità. Mi sono arrivato a un certo punto, non ce l'avevo più stamattina. Sono tutto detto, Giovanni, guarda, ho bisogno di una birra, perché se no sto cade in terra. Una cosa all'altra, la documentazione, quelli che vogliono in pratica, vanno subito a casa, capito? Adesso non è più come prima, no, che prima si servono mese. Oggi si per dire c'è un cali, c'è un costo. Due giorni a casa, arrangiati. Se poi ci sono complicazioni, io non ho quel pronto soccorso, non hai capito cosa fanno adesso. La legge nuova che ha fatto la regione, il discorso è questo. Ma non conviene più andare a pronto soccorso, e se scorre di andare a quell'altro ente. Via sapere, vai lì e ti fai colare lì, che cos'è questo? Ma i ricoveri non ne fanno più.